pieno di coraggio, ho fatto un lungo viaggio. Hai fatto un lungo viaggio. Non ho certo paura, ma è stata molto dura. È stata molto dura. 230 lupi, 3 falchi e 1000 gufi. Sì, dai, Jack. Pantere, orsi e tigri. Agguato, ma a me non la si fa. Non c'ho tempo, te la solo fai per tre. Non c'ho tempo, te a mondo tu sei pre. E un'aquila infuriata, dall'alto pronta sta, ma a me non la si fa. Non c'ho beato te, da solo fai per tre. Non c'ho beato te, a mondo tu sei re. Eccoci di nuovo in onda. Che bello oggi avere l'hard disk del mio amico pieno di robe da mettere, belle canzoni, e tra queste ho trovato le super chicche, che non mi ricordo assolutamente la sigla, però mi piacevano tanto. Buon ascolto! Ehi, ciao a tutti! Dopo le super chicche, che paura mi fa Carletto! Sono un amico Carletto, l'uomo lupo, Draculino e Frankenstein. Occhio che Frankenstein si sente a pezzi, ciao. usa una mano pelosa. E ti sbaciocchi a una bocca babosa. Mamma, che schifo! Ma sono un amico! Carlito! L'uomo lupo, Draculino e Frankenstein! E continuiamo con questo filo un po' giapponese e ci sentiamo Mago Paccione. C'è una favola di mago che sta in un vaso con la moglie e con la figlia, stragrande meraviglia. Basta fargli uno starnuto, si precipita in aiuto. Prima mette fuori il naso e poi la pancia. Esci! Cambia le carrozze in carrozzine. Ecci! Con le stelle fabbrica lampadine. Esci! Sbuccia senza mani le noccioline. Esci! Sono il mago Pancione, con un cuore così. Sono il mago Pancione, dice sempre di sì. Basta che ti scappa uno starnuto, esci, che diventa subito un amico. Esci, qualche volta un naso raffreddato. Esci, tornati e volevo fare un bel saluto al piccolo Damian dall'assù, no dall'assù, scusate, dalla Repubblica Ceca, pardon, pare brutto altrimenti. Ciao bello Damian, come stai? Ma fatti mandare un massaggio da papà, dai. E questi sono i Pizzicato Five con la sigla di Lupin. バラはあいつの唇優しく抱きしめてくれとねだる瞳の奥に獲物を映して寂しく問いかける愛のありか自分の世界があるたとえるなら空をかける一筋の流れ星孤独な笑みを夕日にさらして背中で泣いてる男の美学 Pizzicato Five, così troncati all'improvviso ci sentiamo Alcalì, ho detto bene, con Fuwa Fuwa. Ok, ci sono, yuhu! けど蒸気に曇る窓越しのデイ何の変哲もないいつもと同じ退屈なデイ Yes, yes, show Yes, yes, と世界は輝き出すよリンリン電話のベルがいつもの私に終わり告げる昨日と同じ道も昨日と同じ風も今日は違って見える少しなんだかスペシャル風凍った H2O 空から降る結晶チッチッチラほらふわふわの雪の銀河今年初めてのデートそわそわしちゃうもんね無限の可能性はふとしたきっかけで今日はちょっとしたデイズふわふわと雪が舞い降りるデイちょっとしたデイズ夢にまで見てたふわふわI'm gonna ょう。あーはん、僕らには永遠なんてないから、一瞬一瞬を輝こう。現在過去フューチャー、未来は迫り来るよ。今年初めてのデート、そわそわしちゃうもんね。無限の可能性はふとしたきっかけで、今日はちょっとちょっとしたデート、ふわふわと雪が舞い降りるデート、ちょっとちょっとしたデート、夢に見てたのです。ふわふわ questa grande libreria detta hard disk, ho trovato una cartellina bella con tutta musica giapponese, tutta farina per il mio sacco, quanto mi piace, grazie amichetto mio. Adesso ci sentiamo la musica del di, già mi sono scordata, oh. In Italia era mille scritte. Ah, no, no, no, no. Mimia Yuaura, Aura. Però sempre giappo. A voglia, sempre e comunque giappo. Kurushiku tatte, kanashiku tatte, koto no naka de wa heiki nan no. Moru ga unaru to mune ga hatsumu wa receive toスパイク、ワン、ツー、ワン、ツー、アタック。だけど、涙が出ちゃう。女の子だもん。涙も汗も、若いファイトで、青空に遠く。 Daitan si! Daitan! Tre! Namida wa nai, namida wa nai, ashita ni hohoemi aru dake. Hanpyak! Daitan si! Daitan si! Nichirin no kagayaki o mune ni hime, ore no karada ga, ore no karada ga moete iru. Tatakae, tatakae, uchuu no hate ni kieru tomo. Kagayaku ginga o kake meguru daitan sui, ware to ari. Habatake ozorae, daichi o kette. E dopo Daitan 3, Astro Ganga. I vostri guerrieri e gli astronauti Non ha bisogno di presentazioni, eh? ビルアップバンバンバンバンビルアップバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバ 親父見てくれ、俺はやるのだ。悪を限りの卑弥呼の一族全滅だ。行くぞバンバンババン、行くぞバンバンババン、ナックルボンバー必殺パンチ。武器が飛び出す不死身の広志だ。鋼鉄神宮ビルドベース ースの守りは堅い。今に見ていろ邪魔大王国全滅だ。進めバンバンバンバン、進めバンバンバンバン、スピンストーム秘密の兵器。腕が飛び出す、足が飛び出す、科学の力が鋼鉄神宮。 Ora cambiamo proprio sponda, eh? Così, all'improvviso, perché uno magari si annoia e vuole cambiare musichetta. Vai col bolero. Vi state addormentando? Piano piano sale, non vi preoccupate. Tan, tan, tan. Piano, piano, sale. Siamo sempre su Bimbi dal Basso e adesso la canzone si animerà un pochino. Ciao! E sale sempre di più. Va che mancano solo 10 minuti. Thank you. che bellezza! Il mal di testa è andato via, l'ho usato come moment il Ravel. E adesso ritorniamo sui nostri passi, va? Come into my life. Through the window, I'm moving too fast through my life, while the moon remains constant in the sky. The night is holding its breath, inside in silence I'm dead. But if I make it until tomorrow, I know that my fear will be gone, and so I'm waiting for the morning to come. If I say it says come. Bring pull of a shop. Corner shop. Well, it's a brim full of Asher on the Basta con sto brimpolescial. Vai con Gigi D'Agostini, mi sono stufata. Saluto da Bimbi dal Basso e passo il testimone a un bel DJ set, serio, veramente serio.